Noi abbiamo visto che nel Vangelo di Giovanni questo discepolo che Gesù amava viene presentato così nell'ultima cena quando c'è la rivelazione del traditore e appoggia il suo capo sul petto di Gesù e gli fa una domanda molto personale, molto intima, e fra l'altro mi ricordo, a proposito del svelamento del traditore, il Papa Benedetto dice una cosa molto bella nel suo libro su Gesù di Nazareth, che dice che Gesù in quel momento ha preso su di sé tutti i tradimenti della storia, no? Quindi li ha vissuti, li ha sofferti, tradimenti o cose simili, no? Cioè che poi a volte possono essere anche cose molto piccole o anche inconsapevoli, no? Quindi l'amico o l'amica che non ci dà quello che noi desidereremmo, che ci si dimentica, che ecco, cose di questo tipo, no? E altre volte che svela senza motivo una cosa che gli abbiamo confidato, oppure ecco, cose piccole, da cose piccole fino a cose più grandi, no? Evidentemente cose grosse che magari possono segnare anche la vita di una persona. E Gesù tutti li ha presi su di sé, quindi quando a noi dovesse capitare nella vita di soffrire, magari appunto lo soffriamo perché siamo particolarmente sensibili, no? E la persona è inconsapevole di darci questa stilettata, no? Pensiamo che tutto ciò lo ha sofferto Gesù e quindi possiamo capire che quella piccola goccia di sangue ci unisce a tutto il sangue versato di Gesù, quindi ci identifica con lui, facciamo un po' di esperienza di quello che lui può aver sofferto nella sua passione e morte, no? E tutto questo che poi ecco il che poi lo ha portato alla risurrezione, quindi è tutto salvato, no? È tutto offerto per il bene, per la salvezza del mondo. E, ecco, e poi abbiamo trovato il discepolo, anche se non abbiamo avuto modo di soffermarci in una meditazione apposita, però avete spesso meditato su queste cose anche nella Via Crucis. Abbiamo il discepolo che Gesù amava, viene esplicitato così con questo nome anche sotto la croce, no? Quando Gesù affida a lui la madre, ecco tua madre, e affida alla madre questo figlio, ecco tuo figlio, e da quel momento il discepolo l'ha preso con sé. Allora veramente questo discepolo amato viene considerato da Gesù come un altro Cristo, è lo stesso Cristo, e gli affida la madre e affida lui alla madre. Noi ci sentiamo il discepolo che Gesù amava e quindi sappiamo che Gesù affida a noi sua madre perché la prendiamo nella nostra vita, perché la prendiamo nella nostra casa. Lei è già presente nella nostra vita, però possiamo considerarla sempre totalmente presente nel nostro cuore, nella nostra vita. Lei sa tutto di noi, lei conosce tutto di noi, appunto ama tutto di noi, soffre tutto di noi, prega continuamente per noi, come noi le chiediamo nell'Ave Maria. Quindi dobbiamo avere questa certezza assoluta. Cioè, poi noi ci possiamo dimenticare, noi ci possiamo appunto non averlo presente, Ma non è che incide sulla presenza di me nella nostra vita. E quindi se ci ricordiamo è più bello e lei sicuramente è contenta, e se noi la preghiamo lei sicuramente può utilizzare queste preghiere come un tesoro da utilizzare per chiedere a suo figlio tante cose per la Chiesa, tante cose per il mondo, no? Per la nostra famiglia, però che noi chiediamo a Gesù questa grazia, no? che questo affidamento che lui ha fatto da sopra la croce, guardando sotto a noi, questo affidamento della madre che ci ha fatto, noi ce lo ricordiamo, no? Che non ce lo dimentichiamo, che non dubitiamo mai che Maria è dentro la nostra vita, perché noi l'abbiamo presa con noi a partire da quell'invito di Gesù. E non, ecco, la sua presenza è sicura, non dipende dalla nostra preghiera. La nostra preghiera è, lei sicuramente se l'aspetta come importante, come bella, come consolante, come però non è che se noi ci dimentichiamo di pregare lei non è presente. Quindi in qualunque momento noi riceviamo il dono di ricordarci di lei e la invochiamo, e nelle tempeste invoca Maria, no? Diceva San Bernardo, no? Le tempeste della vita, e ipsa duce, lei ti conduce, e lei guida la barca della tua esistenza. Allora noi siamo sicuri, siamo nel suo grembo, siamo costantemente allattati da lei, no? Come in questi giorni la piccola Teresa, no? È stata allattata dalla madre anche adesso. E così noi siamo costantemente, cioè quando abbiamo bisogno possiamo ricorrere al suo petto per prendere il latte della sua presenza, della sua intercessione, della sua grazia, del suo affetto, della sua tenerezza, della sua profondissima comprensione delle situazioni della nostra vita, delle problematiche della nostra vita. Noi come discepolo amato abbiamo Maria con noi. E poi l'altro momento in cui il Vangelo lo chiama così, il Vangelo che noi pensiamo che sia scritto da lui stesso, sono quegli episodi della domenica mattina che avete meditato oggi, aiutati da Don Pietro, no? E Maddalena che corre da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, l'altro discepolo. E poi in effetti a Maria Maddalena Gesù dice vai, e appunto non sono ancora salito al padre, e la manda dai suoi fratelli, no? Vai dai miei fratelli e di loro salva il padre mio, il padre vostro, Dio mio, Dio vostro. E lei va e dice ho visto il Signore. E poi io penso che Gesù in qualche modo le abbia detto, io, cioè adesso quando salgo al Padre un po' scompaio alla tua vista, al tuo tatto, perlomeno così come si usa qua sulla terra, però però mi puoi continuare a vedere e ad abbracciare in un modo diverso quando io sarò salito al cielo, che è quello che possiamo fare noi oggi nell'orazione, con l'Eucaristia, il corpo di Gesù che viene a riempire il nostro corpo e la nostra anima, corpo e anima che entrano in unità profondissima con noi. E poi dopo mi puoi trovare nella chiesa, cioè dai miei fratelli mi trovi. E in effetti è così, quella sera Gesù appare, quindi qui il discepolo amato è dentro a tutti gli altri, non si mette in evidenza Tommaso che non c'era, no? che viene aiutato dagli altri che c'erano e viene, diciamo così, aiutato a tornare con loro nel cenacolo, a non starsene per conto suo, e lì effettivamente insieme agli altri Gesù appare, no? Come a dirci che la nostra fraternità è molto importante, no? Gesù vuole che siamo fratelli, che siamo sorelle, che siamo fratelli e sorelle con Lui, e quindi a volte appare ad una persona, altre volte a tutti insieme, no? A tutti insieme, come a dire che noi, Gesù, ti troviamo nella Chiesa, ti troviamo nella fraternità, ti troviamo. Non vuole Gesù che, ecco, Maddalena appare a tu per tu, però poi dice vai dai miei fratelli e di loro, no? Ama tantissimo Gesù questa nostra comunicazione che poi diventa comunione, il fatto di aiutarci gli uni gli altri, gli uni gli altri. Non ci dobbiamo meravigliare di questo, anzi dobbiamo essere assolutamente felici di questo, quindi ci confidiamo gli uni con gli altri, non necessariamente con tutti, ma quelli, però con chi vogliamo. E il dono che Dio dà a una poi non è solo per lei, quindi il dono che dà a uno di noi non è solo per lui. Quante volte ci renderemo conto che un dono dato da noi nell'esperienza della vita, nell'esperienza della preghiera, nell'esperienza anche della direzione spirituale o di un ritiro, poi dopo, subito dopo, può servire a un'altra persona, no? Della nostra famiglia, delle nostre conoscenze, o anche estemporaneamente, così per caso in realtà per provvidenza di Dio, perché il caso non esiste, incontrata sulle strade della nostra vita. E l'ultima volta che viene nominato il discepolo, cioè no, l'ultima volta no, cioè altre volte viene nominato nell'ultimo capitolo di Giovanni, il capitolo 21, quell'anno, ecco, più volte viene nominato il protagonista. Gesù appare sulla riva, dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, si manifestò così, si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? E gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. C'è l'unità dei discepoli che seguono Pietro, così è la Chiesa, no? Dobbiamo essere molto uniti al Papa, pregare per lui e andare nella direzione che lui dice, e anche se non la comprendiamo a volte, no? Però l'unità con il Papa è sempre efficace. E anche se possa sembrare che non si prende nulla in quella notte di pesca. Però quando siamo uniti con il Papa, quando siamo uniti tra di noi, quando siamo uniti in questa... La pesca è una delle immagini del lavoro della Chiesa, del lavoro della redenzione, così come altri lavori umani Gesù ha usato per parlare del lavoro della Chiesa, no? Che avrebbe prolungato la sua missione, il pastore, no? Che prende sulle sue spalle la pecorella smarrita, il pastore, oppure il seminatore che semina e il seme cresce anche se lui non sa come fa a crescere, e poi a volte dà frutto solo sulla terra buona, da altre parti si perde. Immagini del lavoro umano che spiegano il lavoro di Dio, no? E anche nell'Antico Testamento, il lavoro del vasaio, no? Il vasaio che modella l'argilla, poi viene fuori male, allora la rimpasta tutta, la modella di nuovo. Così fa Dio con il suo popolo, ha detto il Signore a Geremia, no? Va, scendi nella bottega del vasaio. Quindi il Signore ci rimpasta totalmente con la stessa creta, la stessa argilla con cui ha creato Adamo, può cambiare totalmente la nostra persona. Non ci dobbiamo meravigliare. L'azione dello Spirito Santo può modellarci in modo diverso da come sappiamo di essere. Noi nella Pentecoste le chiederemo, no? Scalda ciò che è freddo, rendi morbido ciò che è duro, raddrizza ciò che è sviato. Allo Spirito Santo, no? E Gesù è presente anche se non lo vediamo, e Gesù è vicino, Gesù si fa vicino quando il lavoro non ha dato frutto e quando abbiamo fame e quando fa freddo. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Noi chiediamo a te, discepolo che Gesù amava, l'intercessione, e chiediamo a Gesù, chiediamo a Maria, chiediamo allo Spirito Santo di saper vedere il Signore, cioè di saperlo riconoscere attraverso questi fatti, no? Erano 100 metri dalla riva, non hanno riconosciuto per l'aspetto del volto, perché poi Gesù appariva in modo non riconoscibile. Perché? Per suscitare la loro fede, perché si capisse che aveva un'umanità diversa da quella di prima, cioè risorta, trasfigurata, perché voleva far capire loro che sarebbe stato presente ma non riconoscibile fisicamente. Perché voleva far loro capire che sarebbe stato presente attraverso di loro, come dicevamo ieri. È il Signore. E allora Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Cioè lui fa lo stesso gesto che aveva fatto Gesù nella lavanda dei piedi. Con lui non aveva saputo Pietro capire. Aveva tentato di respingerlo e invece adesso nuota verso di lui, no? E facendo lo stesso gesto. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, non erano infatti lontani da terra se non centinaia di metri. Appena scese a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Gesù aveva già con sé tutto l'occorrente per darci da mangiare, però ha voluto che noi partecipassimo alla sua e sia questa sua colazione, cioè che e così fa sempre il Signore, cioè lui potrebbe fare da solo, ma non vuole fare da solo. Quindi non vi meravigliate che il Signore voglia servirsi di ciascuno di voi per farsi presente, per dire ad una persona quanto lui lo ama. Lo dice attraverso il tuo amore, attraverso il nostro amore, e poi lo dice a volte anche attraverso le vostre parole. Vuole farci partecipare del suo compito di redentore, di salvatore del mondo, è molto bello che sia così, e veramente dobbiamo ringraziarlo che sia così. Allora Simon Pietro salì nella barca, trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. E quindi Gesù è preoccupato anche del nostro cibo, no? È preoccupato, cioè, e si occupa di darci sia il cibo materiale che noi gli chiediamo del Padre nostro, e noi gli chiediamo che lo possa dare a tutti anche attraverso il nostro lavoro, la nostra elemosina, la nostra attenzione a chi non ne ha. E poi dopo fa che dia il pane, che dia il lavoro, che dia la salute, insomma. Il Signore vuole che glielo chiediamo. La preghiera della Chiesa, noi la facciamo nella Messa, poi pensate alla preghiera del Venerdì Santo, no? Questa grande preghiera per tutte queste grandi intenzioni. Queste 10, mi pare che siano 10 intenzioni, e bene, che preghiamo e poi che ci adoperiamo, no? Pregare e adoperarsi, no? Pregare e darsi da fare. Preghiamo anche con la nostra stessa vita offerta al Signore, col nostro lavoro che è preghiera, in unità di vita. Questo è un altro bel concetto che è molto presente nello spirito di San José Maria, poi è entrato, sapete, è entrato nel Magistero nella Christi Fideles Laici, questa esortazione apostolica dopo il sinodo sui laici che fece Giovanni Paolo II, entrò questo concetto di unità di vita del cristiano. È molto bello, cioè tutto in noi è uno, no? Il lavoro che diventa preghiera, la preghiera che è anche un lavoro, ma ecco la contemplazione che si mescola con la nostra vita di famiglia, con la nostra vita per chi è sposata matrimoniale, con la vita educativa per chi ha figli, ma in generale con tutto il nostro apostolato, è tutta una sola vita che dà gloria a Dio. E non dobbiamo vivere come a compartimenti stagni, no? A cassetti separati. E quindi questo ci dà molta serenità, perché la preghiera del cuore ci può essere sempre, quando siamo immersi in tante attività. E Gesù, ecco, dopo aver dato loro da mangiare, e quindi Pietro ha anche le risorse del cibo appena ricevuto, no? E l'incoraggiamento del lavoro che improvvisamente ha avuto un frutto che non si aspettava più. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli fa tre domande sull'amore, no? Allora, sul suo amore, cioè Io qui vedo Gesù che ha, da un lato ci fa capire che le tre negazioni di Pietro sono state tre mancanze d'amore, no? E le può riparare con l'amore. Quindi il peccato è sempre assenza d'amore, lo possiamo sempre riempire con l'amore. Il peccato è fare il male e con il bene lo possiamo coprire, affogare, debellare. Un atto d'amore di Dio perfetto, diceva la teologia antica, è capace di, cioè purifica tutti i peccati, anche senza la confessione. Poi la confessione è sempre consigliata perché un atto d'amore perfetto, magari non sappiamo se è proprio perfetto, è quello che considera Dio veramente il nostro amore definitivo, totale, quindi e abbandoniamo così il nostro egoismo oppure ecco, le nostre inimicizie, facciamo entrare Lui come amore totale che è capace anche di amare i nemici, di fare del bene a coloro che ci odiano e di pregare per i persecutori. E questo amore cancella tutti i peccati, che è il motivo per cui un martire anche, ecco, riceve il battesimo di sangue. Che cancella tutti i peccati, perché sta donando la sua vita in un atto d'amore totale, no? A Dio. Gesù. E poi mi dice queste tre domande di Gesù sull'amore, cioè mi ami tu, più di costoro mi ami tu e poi mi vuoi bene. E mi dice che Gesù ha desiderio di sentirsi dire ti amo, ha bisogno di sentirsi dire ti amo, ha desiderio che noi rientriamo nell'amore di Lui, ecco, quindi questa è una risorsa che abbiamo sempre, qualunque, in qualunque momento poi ci sentissimo, appunto che l'abbiamo abbandonato, che l'abbiamo trascurato, che ci siamo dimenticati, che è normale che accada, no? Nella nostra fragilità umana, noi con un atto d'amore recuperiamo tutto. Ti amo Gesù. Come diceva quel punto di cammino, ma insegnami ad amarti, no? Aiutami ad amarti, cioè ricordami di amarti. E forse se Pietro non ha avuto, quando Gesù usa il verbo relativo all'agape, che viene tradotto mi ami, Pietro non ha il coraggio e dice ti voglio bene, e usa più il verbo dell'amicizia. Però noi possiamo chiedere al discepolo che Gesù amava e anche a Pietro la grazia di usare invece il verbo ti amo, non solo il verbo ti voglio bene, no? Però Gesù, che è magnanimo infinitamente, quindi si adatta a lui, prima gli chiede mi ami tu più di costoro, cioè mi ami perché ti sto mettendo a capo di questa chiesa, devi amarmi di più di loro, però lui Pietro non riesce a dirgli mi ti amo di più di loro, no? Anche perché è consapevole che lo ha rinnegato 3 volte. Lo sai, tu lo sai che ti voglio bene, tu lo sai che ti voglio bene, gli ripeto una seconda volta, e poi tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene, e si addolora che lo chiedesse per la terza volta, forse perché si ricorda del rinnegamento, e tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E poi prendiamo. Da questo Vangelo possiamo prendere tantissime cose che voi saprete leggere, che lo Spirito Santo vi suggerisce con queste letture. Prendiamo la risposta di Gesù, dopo che lui gli dice ti voglio bene, ma Gesù dice tutte e tre le volte, usando anche verbi diversi, chi di voi sa il greco può andare a vedere l'originale, ma comunque dice Gesù per la prima volta, quando Pietro gli dice tu lo sai che ti voglio bene, gli disse paci i miei agnelli, la seconda volta gli dice pascola le mie pecore e la terza volta gli dice ancora paci le mie pecore. Tre volte, perché fosse chiaro a lui, ma perché fosse chiaro anche a noi, che lui ha bisogno di sentirsi dire ti amo, ha bisogno che noi lo amiamo, però poi manifestiamo l'amore nel pascere le sue pecore. Cioè nel dare nutrimento, come lui ha dato da mangiare a questi discepoli, così fate anche voi, cioè date da mangiare senz'altro il cibo che c'è bisogno per vivere, e poi date e anche il nutrimento spirituale, cioè date l'amore, che è il nutrimento più importante dal punto di vista umano e spirituale, un amore che si manifesta in tantissime cose, no? In tantissimi gesti, in tantissimi linguaggi, in tantissimi fatti. Cioè dice, non solo sì, ci credo che mi vuoi bene, me lo dici con le tue parole, ma manifestalo nell'amore per gli altri. In questo senso noi prendiamo, ce lo siamo già detti in questi giorni, l'insegnamento perenne del Vangelo, che mai l'amore di Dio è considerato in modo avulso dall'amore fraterno, dall'amore per il prossimo, dall'amore per gli altri. Quindi noi amiamo Dio, ecco, mi viene in mente nella liturgia delle ore, quando c'è la festa di San Vincenzo de Paoli, e c'è una lettura di una sua lettera, e le sue lettere sono molto, ci sono chi le ha lette, io non le ho lette, ma dice che ci sono molti aspetti che poi si ritrovano anche in San José Maria, ma è ovvio, come dicevamo, l'Opus Dei nasce nella Chiesa, no? Quindi anche in questa sua lettera dice ai suoi figli spirituali, se devi ancora fare l'orazione e bussa un povero alla tua porta, lascia l'orazione e vai dal povero. E Gesù tante volte ci dirà questo, no? Se tuo figlio ha bisogno di te, se tuo marito ha bisogno di te, se un'amica ti chiama ed è nelle lacrime, e tu ascoltala, come disse una volta, e anche questo lo ricordo spesso, San José Maria disse una volta, cercare un suo collaboratore con urgenza, lui stava celebrando la messa, e lo racconta lui, e quando finì la messa, ecco, nel piano di vita dell'Opus Dei c'è il ringraziamento dopo la messa, anche voi lo fate qua, una decina di minuti circa di preghiera dell'intimità con Gesù e Cristo. Allora lui pensò, cosa faccio? Mi fermo? Perché subito dopo la messa gli dissero, il padre ti cerca con urgenza, ma ci ha detto di dirtelo che ha bisogno di te. Allora lui dubitò un po', mi fermo altri 10 minuti, no? Oppure vado subito, e andò subito. E appena entrò da lui, il padre gli disse, figlio mio, oggi hai fatto il più bel ringraziamento della tua vita. È questa logica. E altre volte raccontano i primi numerari dell'opera che facevano le loro convivenze estive di studio, di formazione a Castel Gandolfo, nella Villa delle Rose, che avevano regalato a Don Alvaro che gli serviva come casa, come questa di ritiri, di incontri. E allora lui da Roma li raggiungeva dopo pranzo e stava con loro a chiacchierare in giardino, e gli parlava dell'opera, e gli parlava, insomma, a volte si dilungavano questi incontri per ore. E così, quando erano già le 5 del pomeriggio, diceva al direttore: oggi abbiamo già fatto la nostra orazione del pomeriggio. Quindi quella tertulia, quel momento di vita di famiglia, quello stare insieme a raccontarsi le cose belle, cantavano, si raccontavano barzellette, ma però poi parlavano dell'apostolato, parlavano dei sogni, delle espansioni future dell'opera, e avevano fatto orazione. E quindi sei stata mezz'ora al telefono con un'amica lontana che ha bisogno di un conforto, che ha bisogno di un orientamento, ed era l'unica mezz'ora in cui tu potevi fare l'orazione. Quel giorno hai fatto la più bella orazione della tua vita. E così via, davvero. Ma se succede sempre, avrei fatto sempre l'orazione più bella della tua vita. Cioè, non possiamo programmare l'amore di Dio. Non possiamo programmare l'amore di Dio né l'amore per il prossimo. Dobbiamo lasciarci portare dallo Spirito Santo, che ci porta le persone da aiutare, le persone da amare, cioè ci porta Gesù, le sue pecorelle, i suoi agnelli, che noi, a cui noi dobbiamo dare nutrimento. Poi anche noi abbiamo bisogno di nutrimento, ed è tutto così, è tutto un aiuto reciproco. E l'ultimo brano in cui si parla di questo discepolo che Gesù amava è un brano un po' misterioso, però Pietro, perché poi Gesù gli dice a Pietro: poi verrà un giorno in cui sarai vecchio e un altro ti vestirà, ti porterà dove tu non vuoi, per dirgli la morte, gli profetizza un po' la morte di croce. Pietro si voltò, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? E Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Le voci anche nella prima chiesa ci sono, le voci sbagliate, diciamo così. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma che: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Alcuni autori dicono che quindi questa aggiunta è dei discepoli di Giovanni, qualcuno che ha aggiunto, però non importa. Proprio per queste parole vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, ecco. Ma noi prendiamo l'idea che appunto sia Pietro che Giovanni seguono Gesù, però hanno dei destini diversi, hanno dei doni diversi, hanno dei carismi diversi, hanno dei talenti diversi, hanno un compito diverso nella Chiesa. Si aiutano. Uno dice il Signore e l'altro si getta in mare. Così. E anche noi, quindi, non ci dobbiamo troppo confrontare, no? È istintivo, è molto frequente, no? Che ci confrontiamo, ma lei, ma quell'altra, guarda un po', no? Che doni ha, no? E io non ce li ho. A parte che in fondo non sappiamo bene, ma e tante cose della vita degli altri che conosce solo il Signore. Però abbiamo doni diversi, abbiamo compiti diversi, abbiamo vocazioni diverse, possiamo dire così, all'interno della Chiesa. Però tutti siamo amati da Dio, tutti siamo richieste di amore da parte di Gesù, e a tutti Gesù chiede: pasci le mie pecorelle. A Pietro e al Papa lo chiede in un certo modo, a noi in un altro, ma a tutti lo chiede, a tutti lo chiede. Quindi noi ringraziamo Gesù di esserci venuto, di avere lasciato in questi giorni che noi potessimo appoggiare il nostro capo sul suo petto, che noi, di averci dato sua madre e di averci chiamati attraverso Maria Maddalena a vedere il suo sepolcro vuoto, a incontrarlo personalmente come lei, e ad essere venuto accanto alla nostra barca vuota, alla nostra notte infruttuosa, alla nostra fatica, alla nostra fame, e ad averci dato il nutrimento, lui proprio come cuoco, e ad averci dato pane e pesce, ad averci dato il suo corpo, e ad averci chiesto se lo amiamo, e ad averci chiesto, nonostante i nostri rinnegamenti, le nostre fragilità, ad averci chiesto di essere noi in nutrimento col nostro cuore, con la nostra vita, delle pecorelle che sono sue, che però lui ci affida, e Maria, che è madre nostra e loro, di tutti, ci aiuterà sempre.